Questa manifestazione qua nasce all'insegna di una crisi che in effetti è finita se noi impariamo a vivere con questo mercato. Sarà così per almeno i prossimi 2 anni. Quindi questa manifestazione ha l'intenzione di dare una speranza di aumento del lavoro attraverso l'innovazione, attraverso nuovi prodotti, attraverso un'edilizia sostenibile, attraverso una sicurezza migliore su tutti gli edifici costruiti e non ultimo abbiamo avuto dei tragici esempi, attraverso quindi un impegno maggiore degli costruttori e di tutti quelli che lavorano nell'edilizia per fare prodotti sempre migliori e sempre più competitivi. Se l'Italia non è in grado di assorbire questo mercato evolutivo, comunque c'è tutto un mercato globale che ci può aspettare. In Italia per i prossimi 2 anni potremo solo sopravvivere. Se vogliamo crescere dobbiamo investire sull'innovazione e sugli altri mercati. Cosa vuol dire edilizia sostenibile? Quali sono i materiali da scegliere? L'architettura, eccetera? Perché se ne parla tanto, però poi magari non si sa in dettaglio. Certo. Allora, edilizia sostenibile vuol dire orientare non solo le imprese ma anche gli enti che poi devono dare le autorizzazioni, quindi gli enti locali, comuni e quant'altro, orientare i materiali di costruzione verso tutto ciò che porta a minor consumo energetico, risparmio quindi dei materiali, riciclaggio, abbattimento acustico, tutto ciò che può dare un contributo a limitare l'inquinamento, in poche parole, questo è il contributo. Si stanno aprendo grosse ricerche su materiali riciclati, su sistemi di isolamento acustico e termico per disperdere meno calore e quindi risparmiare. Tutte queste cose qua devono essere però attentamente seguite dagli enti anche amministrativi e quindi anche, se vogliamo, dei ministeri, perché se gli stessi ministeri non adottano queste regole c'è il rischio che tutto il rinnovamento del patrimonio urbanistico finisca per diventare inutile ma e non sostenibile. Ma quindi quanto c'è di made in Italy dal punto di vista della sostenibilità e quanto invece conviene in questo settore guardare all'estero? Allora, in made in Italy, diciamo, le imprese che lavorano per il mercato italiano oggi si trovano di fronte a 2 grossi problemi. A, c'è un sacco di invenduto, un sacco di appartamenti che non si vendono, in poche parole, nonostante la richiesta sia alta. B, le imprese italiane oggi non riescono neanche a avere il contributo necessario per poter far fronte alla fine dei lavori, neanche dagli istituti di credito che hanno ristretto. Quindi, se vogliamo investire su un mercato così povero, dobbiamo per forza avere un prodotto migliore e quindi torniamo al discorso dell'ecosostenibilità. Il problema è che all'estero è già recepita questo tipo di filosofia, quindi le aziende italiane che hanno un orientamento sul mercato estero con questi tipi di innovazioni hanno già un mercato pronto. In Italia purtroppo c'è un po' di difficoltà, c'è ancora molta poca chiarezza su quali sono i materiali ecocompatibili e quali no, sul riciclaggio c'è molta difficoltà, addirittura oggi le materie riciclate costano più care delle materie non riciclabili. Questa confusione ha bisogno di un ordine che viene soprattutto dal Parlamento, che deve legiferare, deve dare delle regole nuove, altrimenti ci saranno sempre costruttori che costruiscono male e palazzi che crollano.